Qui il Cairo, in ogni occasione della Repubblica Araba d'Egitto, cari ascoltatori, benvenuti. Sono le 20 ore locali equivalenti alle 18 ore di Greenwich. Programma di lingua italiana di oltremare a destinazione dell'Europa centrale, trasmesso sulla frequenza di 9490 kHz, pari a 31 metri delle onde corte. Thank you. funziona l'hardware che si porta in un mondo molto efficiente e meraviglioso, un mondo di fantasia e realtà, di gioia e tragedia, di luce e lacrime. In questo mondo ci dimentichiamo totalmente, nelle sue personaggi e le eventi che appaiono sempre più grande storia. E parlando dell'arte settima, non si può negare il gran merito del film di piani in questa parte, grazie alla sua grandissima storia e al grande contenuto degli artisti di piani d'arabo molto abili, che hanno svolto tanti sforzi per sacrifici lungo gli anni per vedere l'insieme film di piani. Questo nostro programma è dedicato al film di piani che ha celebrato a giugno 2018 il suo 100° anniversario. In ogni puntata vi parleremo in dettaglio di uno dei bellissimi film di piani, con film classici, ma più curati, film di cura, regia, personaggi e vedete più lungo. Buonasera carissimi ascoltatori e benvenuti ad una nuova edizione del vostro programma settimanale nuovo portale del film. Stasera dedichiamo la puntata di un documentario della durata di 20 minuti per la famiglia 6. Si tratta di un set da lato e un ragazzo, anche durante la giornata di notte in piano sono agendari. Un set di spavento di saggio ha partecipato alla 17ª edizione del Festival di Film Italiano, da una zona di amore proprio di Milano. Questo film è il studentesco della città di Porta E, ma ci sono delle carte al Cairo per studiare, condividendo un appartamento. Una gestione che è uguale per le donne di San Francisco, la ragazza era così l'opportunità di vivere per studenti di Porta E, con un compagno da stanza e una relazione con la società e con loro, in una propria divinità con il Cairo. Magari più dettagli sul tema del sapere di contratto un attimo di dettagli. Anche all'interno del suo studio universitario di cinematografia, due delle stabilite del suo documentario erano le sue teorie. Con lui aveva iniziato un rapporto sui diritti umani. Dato conto di questa positiva convivenza, Cairo, tutte le loro famiglie che vivono a Porta E, nel solito circolatore di Cairo, è nata l'idea del documentario, girato in tre giorni con una piccola telecamera, proprio per dare più naturalezza di quello che era attendere le ragazze, che inizialmente erano perplesse, e in difficoltà, infatti, in prendere e di intervistare. Era un film ancora più vero e realistico. Durante l'ultimo giorno di Thank you. Iniziamo con i titoli delle principali notizie. Il vertice dell'Unione Africana decide la creazione di una forza africana di reazione rapida. I ministri degli esteri europei oggi a Bruxelles per discutere il rinnovamento delle sanzioni contro Damasco. Il presidente dell'Assemblea nazionale libica si dimetterà domani. Almeno 15 morti in una serie di attentati in Iraq. E ora ascoltiamo le notizie in dettaglio. I leader africani riuniti ad Addis Abeba in Etiopia hanno deciso di creare una forza di reazione rapida, tutta africana, in grado di intervenire nei conflitti sul continente. Lo ha annunciato il presidente di turno dell'Unione Africana. Il primo ministro etiope, Hailem Mariam Desalegn, ha parlato di una decisione storica. Molti paesi si sono offerti di dare il loro contributo ad una forza del genere. Il ministro di Stato etiope per gli affari esteri ha annunciato oggi che la diga da un'asta che sarà costruita dal suo paese aveva come unico scopo di generare l'elettricità e non l'agricoltura. Ha inoltre affermato che la diga non ridurrà la quota del gusto dell'acqua del Nilo. Nelle dichiarazioni alla stampa, a margine del vertice africano da Addis Abeba, il responsabile etiope ha sottolineato che l'Etiopia non ha alcuna intenzione di nuocere agli interessi del popolo egiziano, e ha aggiunto che l'Etiopia non aveva mai preteso di possedere da sola tutto il fiume del Nilo. L'incaricato degli affari dell'ambasciata del Cairo a Damasco, Alad Al-Azim, ha annunciato che l'ambasciata organizzerà dei viaggi per via terrestre o aerea per rimpatriare gli egiziani che vogliono lasciare la Siria e ritornare in Egitto. Da notare che l'ambasciata egiziana a Damasco ha organizzato il ritorno in Egitto di più di 5.000 cittadini egiziani dall'inizio della crisi siriana. Il segretario generale della Lega Araba, la Lega Arabi, sarà mercoledì a Roma. Lo riferiscono fonti diplomatiche egiziane, secondo le quali nella sua visita l'Arabi incontrerà il ministro degli esteri Emma Bonino. È anche possibile che il capo della Lega incontri il Papa Francesco, ma l'udienza, al momento, secondo le fonti, non è stata ancora confermata. Le autorità palestinesi non faranno alcuna concessione per le comunità di benefici economici, per quanto si vuole un comunicato diffuso da Mohammed Mustafa, presidente del Fondo di investimento della Palestina e il consigliere economico del presidente palestinese Mahmoud Abbas, all'indomani dell'annuncio del segretario di Stato Iva John Kerry di un piano da 4 miliardi di dollari per rilanciare l'economia palestinese. Una decina di soldati delle forze di occupazione israeliana, 10 membri sui servizi di informazione militare e circa 25 coloni hanno invaso oggi la moschea Al-Aqsa. L'istituzione Al-Aqsa per l'Iraq e i patrimoni hanno annunciato un comunicato che le forze israeliane sono state dispiegate in numerose parti della moschea in mezzo alle persone che ne trovavano e agli studenti che stavano in questo luogo santo. L'esercito israeliano sta indagando su un presunto attacco con razzi contro la città di Metula, alla frontiera con il Libano, dopo alcune segnalazioni di eventi locali. Secondo fonti di stampa libanesi, l'esplosione udita da alcuni abitanti del posto sarebbe stata provocata da un razzo lanciato su Israele dal sud del Libano. I residenti di Metula hanno detto di aver udito delle esplosioni. I soldati stanno facendo delle ricerche sul posto, ma per ora non hanno trovato nulla, ha spiegato un portavoce israeliano. Sono le 20:20, Dan di Cairo sta ascoltando il notiziario. Provocare un embargo UE sulla vendita di armi in Siria solo per i ribelli, in modo da inviare un chiaro segnale a Bashar al-Assad. Tra quanto ha chiesto la Gran Bretagna al Consiglio UE in cui si discute di come procedere con le sanzioni alla Siria, con scadenza a breve. Dal nostro punto di vista è importante dimostrare che ci stiamo preparando a modificare l'embargo, in modo che la regione di Assad arrivi un chiaro segnale che deve negoziare seriamente, ha detto il ministro dei nostri William Hall, ribadendo che la mossa fa parte delle misure che la Gran Bretagna ritiene utili per arrivare ad una soluzione politica del conflitto. Da parte sua, il ministro degli esteri francese, Lorenzo Bu, ha parlato da Bruxelles di un utilizzo di armi chimiche sempre più probabile in Siria. il titolare del Cover Chea per privato scende da una riunione con i suoi omologhi europei che queste informazioni necessitano di verifiche molto precise. La Russia non controllerà da mappi missili antiaerei S-300, descrive il Times Londra citando il funzionario russo. Mosca, afferma la fonte, teme che i missili possano finire l'anno sbagliato ed essere usati per attaccare aerei in atterraggio e decollo dall'aeroporto di Tel Aviv. In Israele c'è una grande comunità russa. L'intesa è stata raggiunta in un incontro tra Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu a Sochi. In cambio Israele non condurrà altri raid in Siria. D'altra parte, due inviati del quotidiano francese Le Monde affermano di aver accolto elementi e testimonianze sull'uso di gas tossici da parte delle forze del regime siriano contro i ribelli nel quartiere di Jebar a Damasco, teatro di una violenta battaglia da diverse settimane. Una giornalista della TV di Stato siriana, Alik Bahiria, è stata uccisa vicino a Kuzair mentre lavorava per documentare gli eventi scontri per il controllo della roccaforte del Libano al confine con il Libano. Lo ha riferito al Ministero delle Informazioni di Damasco. La reporter si chiamava Yara Bah ed è stata uccisa nel posto dell'aeroporto di Daba, a nord di Kuzair. L'Iran ospiterà mercoledì una conferenza internazionale per trovare una soluzione politica al conflitto che mi sangue nella strada da oltre 2 anni. Lo ha annunciato oggi il Ministero degli Esteri iraniano. Un annuncio che avviene a poche ore dall'incontro previsto in serata a Parigi tra il capo della diplomazia francese Laurent Fabius e i suoi omologhi americani e russi, Henri Sergei Lavrov, per fare avanzare il progetto di una conferenza di pace internazionale battezzata Ginevra 2, lanciata da Mosca e Washington, che sperano a giugno di portare al tavolo del negoziato regime e opposizione. Violenti scontri sono scoppiati ieri con l'esercito sudanese ribelli nel prossimo di Kabylie, capitale della regione Sud Kordofan. Il portavoce delle forze armate sudanesi ha riferito oggi dell'uccisione di 70 ribelli e del sequestro di 2 carri armati T-55. Versione però smentita dai ribelli, secondo cui negli scontri sarebbero morti 5 miliziani e sarebbe stato abbattuto un elicottero sudanese. Mohamed Magareth, il presidente dell'Assemblea Nazionale Libica, l'organo che rappresenta il potere legittimo in Libia, presenterà domani le proprie dimissioni ai parlamentari libici. A riferirle una fonte vicina a Magareth. La decisione potrebbe essere stata presa in relazione alla legge che impedisce agli ex collaboratori di Muammar Gheddafi di partecipare alla vita politica del paese, che entrerà in vigore il prossimo 5 giugno. Prima di passare nelle file dell'opposizione nel 1980, Al-Megarieh aveva ricoperto il ruolo di ambasciatore della Libia in India. Una serie di attentati di ramicardi a Baghdad negli interni della capitale irachena hanno fatto oggi almeno 15 morti e decine di feriti. Lo hanno riferito responsabili dei servizi di sicurezza. 4 attentati con autobomba hanno ucciso almeno 10 persone a Baghdad, mentre altre 2 esplosioni nei pressi della capitale hanno fatto almeno 5 morti, hanno precisato le fonti. L'Unione Europea ha approvato prolungamento fino al 31 dicembre 2014 della missione di addestramento della polizia in Afghanistan, avviata nel 2007. Il 27 hanno stanziato 108 milioni di euro per il periodo compreso per il secondo semestre del 2013 e fissato nel 2014, si legge in un comunicato del Consiglio UE. Il termine previsto coincide con il fine della missione della NATO, IRAS, che sarà sostituita dall'operazione Sirigessa e incentrata su compiti di addestramento militare. Alla missione UE partecipano 23 stati membri più Croazia e Canada. Ne fanno parte 350 istruttori stranieri, più 200 afghani. Almeno 19 persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite quando un autobus e un trasporto di passeggeri di Rocca Mondovi è caduto in metano vicino alla Parma, nello stato indiano di Uttar Pradesh. Secondo testimoni oculari, l'autista dell'autobus era ubriaco ed ha sbagliato la manovra di sequestro di autocarro mentre si trovava ad alta velocità lungo il statale 91 tra Farrukhabad e Delhi, fondando una barriera di protezione e finendo nei canali. La Radio Cairo vi abbiamo presentato Notiziario. Thank you.

Passiamo ora al quotidiano, alla stampa, per concludere il nostro giro di stasera all'esame. Con una storia di piani di interno creato una nuova unità di polizia al femminile per fermare la violenza contro le donne. Ogni team sarà formato da 20 poliziotti qualificate che si occuperanno dei casi di violenza sessuale e maltrattamenti e forniranno supporto psicologico alle vittime. Radio Cairo del Dano presentato. Prima pagina. Cura di Susanna Bonnet. Presentato per voi da Antonello Bottini. questo c'è il sistema risultato a salute normale dei vari flussi ormonali, ma il capire di uomo è sicuramente Thank you. faccio perché ho usato i tempi di interpretazione. Secondo le prime ipotesi degli archeologi, i tempi sarebbero chiaramente sui punti di accordo per trasferire i nomi dalle ottimali alla valle d'Ora. Thank you.